magari ti parlavano sopra e quindi non riuscivo a sentirti perché c'era uno che ti passava, vuol dire. Tappa 2. A 2, lo sento. Ah no, oggi lo sento, la tonale è tappa 2. L'ho sentito anch'io, ma c'ha quell'antennino lì del cavolo, se no lo mette sul tetto non c'è nulla da fare, qualsiasi che parla lo passa e quindi lo annulla. E lo vedi, sento il pubblico. Ehi, ha detto che piazza attorno, ma ho un antennino, magari è basso e per quello. Se lui quell'antenna la mette sul tetto è un'altra situazione. Non esce da lì, in mezzo a quei palazzi lì, logico che non lo senti. E lo sento basso io, quando entro adesso poco fa l'ho sentito perché c'era bianco, se no non l'avrei sentito. Io ti ho sentito, la verità, l'ho notato anche io, con 2009, ma non l'avevo sentito oggi. Va bene, non c'è problema. E anche tu lo passi e parli tu, Antonio, lo passi e quindi lo annulli praticamente. Vuol dire che gli passavano sopra e io sentivo a quelli che passavano, capito? Tappa 2. Non mi sente quello. E forse non si sente, è al centro storico lui. Tappa 2, ci sei? Sì, ci sono, sento solo a te e poco fa Pier Paolo. Alessio non lo sentivi, non stava chiamando 2 ore. No, scusami Alessio, ma io non ti sento. Tappa 2. Avanti. La palchetta lo senti? Neanche. Mi ha risposto. Che mamma mia. Ehi, Marco 2. Sentito, mi ha risposto. Certo che hai detto così per forza perché ha pensato che eri un'altra persona. ma a me mi sembra messo 4 quello, è già tappa 2. Ma guarda tutto, non mi guarda appena. Vabbè, se io, cioè, se non ti sento, non rispondi. Se ti frutta, ma non rispondi. Invece il mio non risponde, il discorso è quello. Quindi se sente lui, sente anche a me, il discorso è quello là. Ma la voglio pensare male perché non aiuta la canotte. Oh, ha detto che a te non si sente, a Falchetto sì che lo sente, ma a te no. Ma fai chi si convini? Sì, se senti a me senti anche a Falchetto, cioè se senti a Falchetto senti anche a me la verità. Quindi, siccome io sento solo simpatico tutti i giorni, non mi risulta che ci sia paracchino in giro, comunque quello che vuole di lui diciamo, non ha fatto proprio niente, a un certo punto. Ha detto che in piazza sola lui, però non ti sente. Beh, io invece lo sento strano oggi, quindi mi sento anche lui a fuggire, a piazza sola. Lo sento perfetto, lui dice che non sentiva, ma se lo sente. A Falchetto sì che lo sente, ma Falchetto c'è più forte di te, Antonio. Vabbè, questo cavallo è una cosa molto strana. Ti vedo un po'. Sì, se c'è la moglie buona, questo cavallo è. Ah, si dicono queste cose, frequenza. Io ho detto che già ho detto io, che potenza. Si avete preso ancora. Ti può vendere un paio di scarpe lì dentro. Chi ti deve responsabilizzare? Lui dice così. Lui mi ha detto io. Ah, non va bene. Tappa 2. Avanti. La ricopi o non ricopi? Positivo, basta ma ricopi. Oh, cappa di roccia. Andrà bene, Mena. Carissimo. Ma se sta benissimo, se c'è la moglie buona, ma se è tutta buona, dice che è fatta. Quello che mi ha messato, allora cosa ti risponde? Ah, non è giusto, lì sta sbagliando un po'. Che figlio va a San Francisco un attimino. Lì, ma la moglie buona c'hai? Io c'ho la moglie buona. Io la lui a secondo. Sentiamo cosa risponde. Vai, sì. Fagli un secondo, va a far cuffia. Sapete il coraggio, vabbè, dov'è il tesoro? Non più bene gli occhi lui. Vediamo cosa mi risponderà. Tu devi fare bravo. Sto dicendo. Ma che devi fare? Ti posso fare io, non è problema. Tanto, come a dire... Allora, tu io lo sei con, mi trovo a sottomentare di dove sto io. Tu chiedi, io lo sto io. Ma vai, che mi sembra un ragazzino, quindi no, la capigli. Allora mi sembra un ragazzino, la verità, comunque. Quello che vuoi, dai. Bravo di voi. Bravo, gaba. C'è un sonno, no? Ma se non fa richiesta, no, scusami. Comunque sono sicuro che lui è una persona grande e è vaccinata pure, quindi... Se lei è sempre storico, ha tutti i miei, sia quello che penso io. Capo 2! Avanti, verba! Ah, a me già mi ascolti, già! Adesso sei fortissimo e chiaro! Se non ascolti a me, guai, Ascolta, ma gli altri non ne hanno roba per aumentarti tipo lineari? Come per aumentare? Ma chi? Quelli che io sento lontano, così li sento! Tu hai scelti, ma non ne hanno come lui. E io ce l'ho acceso adesso, come ti sta arrivando? E c'è un pochettino di saturazione. Sempre quella della mia antenna bassa. Ma non la puoi mettere sul tetto, più alta? Io qui sono in affitto e sopra di me dovrei chiedere. Perché poi quella forma funziona bene, inizia a funzionare bene se sul tetto. Già me l'ha detto Giuseppe che te l'ha detto sul tetto, guarda dove sono io, perché lui ha visto la zona, ha detto che potrei arrivare anche all'Alghero, però non lo so. Oddio, all'Alghero non lo so, ma può darsi, dipende che posizione è. Ma, cioè, così in basso a quella non funziona, Sì, lo so, ma la pena se sbagliarsi. Solo a me funziona quella, solo a me. Ma tu adesso cos'hai? La torre 26? No, io adesso sono in barra, in DM, cioè, adesso c'ho l'antenna della macchina, dai. Però l'antenna della macchina è come da tutte le parti lo stesso. A casa io c'ho proprio quella, c'ho quella e poi un'altra antenna, un po' più grande. Però io quella lì la faccio andare lo stesso, Già presente, l'ho sentito anche altre volte, ma in che zona sei tu a casa? Io sono in una casa che è vicino alla Butti-Butti, sulla Butti-Butti, però sono abbastanza chiuso, Ma ce l'hai sul tetto tu, cioè prende molto bene allora. Io che sono qui, ti posso dire che non è in basso, perché davanti a me non è che ho palazzi molto alti, però esco come esco. Vabbè, ma tu devi considerare che un'antenna è un quarto longa, e se è un quarto longa bisogna di essere più libera delle altre per funzionare, per avere almeno quasi il 100% le sue funzioni. Se quella non esce fuori dal tetto, le sue funzioni non ce le ha tutte, e quindi non, essendo un quarto longa è troppo corta, capito? Se è stata una 5/8 saresti finito di più. E tipo una 5/8 sarebbe? po' di soldi me la compro anche io. Sì, almeno qualche cosa di più, dai, se no trovi uno che ti faccia anche poca la pesca o di buono. No, già ce l'ho attaccata alla canna da pesca e dunque me la sollevo bene. Io via prendiamo la vista. Però parlo proprio di fare un di buono. Non lo so cosa stai dicendo, non è che me ne intendo. Sì, capo, l'ho visto che non sei molto e che apparerai, dai. Io sono sempre qua. Conosco gente che esce con un dipolo meglio dell'antenna, figurati. Con un dipolo entro a casa, Spiegami che cos'è velocemente, Gerson. Ci vuole un po' di tempo per spiegarlo così, non è facile. Comunque ti ricordiamo che è un pezzo di filo fatto a misura, e voi stesso, e insomma, per voi ci vuole una spiegazione che adesso ci vuole un po' di tempo, Ma tu non sai fare? Ma chiunque lo sa fare, guarda. Lo sa fare chiunque, lo sai fare anche tu. Però il tipo si tratta di un pezzo di filo. Sempre prova a spiegarlo, magari ci provo. Per 27 vuole 2,75 per braccio. Hai visto uno di quei PL che c'è dietro il barattino tu? Ha messo il polo caldo, soldato, uno al polo caldo. Hai fatto 2,75 con l'estremità un isolante all'altra punta del cartiere va soldato il polo caldo, all'altra estremità ci va soldato un qualcosa tipo un pezzo di cosa di plastica che va legato da un'estremità all'altra e vuole dal muro un metro, poi dall'altra poi c'è il 275 lo stesso soldato al polo freddo. All'estremità lo stesso, un isolatore e poi voi stesso tipo con il soffio della stella, ecco. Chi era? Vi siete sovramodulati? Adesso non è così per fa, è 2,64, non 2,5, è 2,64 per braccio, è chiaro, 1,1 è stazionario. Faccio un buon corso, sono sempre avanti, 2,75, io ce l'ho avuto sempre 2,75, ma 2,64, non casino. Stiamo dicendo 2,64 per braccio, perché c'è anche il coso del 0,5, il coso del rame, capito? Quindi la misura giusta è 2,64 per braccio, per lo dicevo perché è così, se non te l'avevo detto, scusami. La misura è quella. Il dipolo 2,64 per braccio, braccio sinistro, braccio destro 2,64. Il mio ci collega la stanza all'altro polo centrale. Lo mette a V, come ti pare, oppure orizzontale, poi mette a 2. È a posto. Esatto, eppure lo voglio provare che è 2,64. Ci mi ha sempre fatto male. Cazzo, venga io e te lo vedo, ti dico io, vai. Ah, io sto dicendo, 2,64, se c'ha 1 euro stazionario mi ridica che la tua in pizzeria, se no te lo dico io, ti sta bene, a scommessa, e te lo butto uno avanti se vuoi, se vieni indietro te lo faccio avere, te lo faccio coprire elettrico. Va bene, io lo provo, voglio vedere, però qua c'è il natalino 2,64 per braccio, 2,75. E io ho fatto 2,65, 2,65, però è per la banda di su, e ci ho messo anche il cimentizzatore, se no non funziona. Vedi, per la banda di su, per la banda di su, per la 27 e 2,75. Prova a farlo 2,64 a vedere se funziona. A me l'orizzontale non mi ha funzionato comunque, perché ho provato quello per la banda di sopra e vuole per forza la V invertita e col simmetrizzatore, se no non funziona. Ah, quello che ti dico io che è meglio. E avete parlato in due, non si è capito niente, Antonio. Allora fai 2,64, perché se 2,5 vinci tu, in pratica ci vuole il rispondete a positivo del sonso del rame è nel 095, qui mi fa 265 vicino a quello, e qui fa 264 per Lazio, capito? Quella a te, verticale e orizzontale. Sì, sta facendo parte del profilo, non ha risposto a Fabriano la notte. Se c'è se non ha quello anche nel suo aspetto, questa è un po' spaventata. La tua fera, porra, che non ha... quanto posso dire? Ciò fa che intende che purtroppo abbiamo rifugi, meglio niente. Ma c'è stato anche lì. Perché non si vede che sono a casa? Ormai sei a casa, non sei a mangiare. No, ho già mangiato qua. Ah, non ho già mangiato questa sera, signora. Ma forse dopo fare una cena, quello che è, però... Se è sana che stiamo facendo lo fiano, la sera, scusi. E ho fatto proprio stava male. Mamma, ma già non visto, quindi... Non ho fatto niente. E quindi... Mi ha detto, dopo che sono venuto in conto... Ma... Un po' di pasta è fatta. Da magari. Sì, va bene. Io da qui va. No, io poi non mi sento bene, sono a mal di schiena, mamma mia. Uff. Perché è questo cazzo che è sempre mezzo di palla, cazzo. Infatti, al negozino ti manco pure di scite né di far nulla. Franchetto, ci sei? No, beh, Franchetto, avviato ci sarà. Devo incassare prima. Bravissimo. Mi dice Franchetto. Cari signori, vi saluto tutti, dai, sono arrivati, me ne vado a nanna adesso, vai. Vi saluto tutti cordialmente, ci riascoltiamo tutte le mani, dai. Ciao, ciao, buonanotte. Metti sulla ricerca, metti di polo per 27, dove va? Un occhio, dai, un buon auto. Sì, dai, ciao, buonanotte a tutti di nuovo, dai, certo. Ciao per Paolo, buonanotte, ciao Antonio, lo stesso. Buonanotte per Paolo. Pierpa, buonanotte, buon tutto, alle prossime. Buonanotte per Paolo, buonanotte tutto, a tutte le prossime. Eh, caro, sei già. Caro. Bravissimo. Sono qua, carissimo Franchetto. Oh, buongiorno. Paolo, è stasera, ma... ieri la musicata la Simona, oggi era qualcuno con me, cioè, ha attaccato a me, mi ha scappato tutto, e anche che hai fatto la terra. E allora che ci vuole bene? Mi ha compreso che hai sbagliato, e allora ci sto scusando, ho capito, ma... Io non devo, ci prendo una copia di antenna ieri. La copia di antenna? Sì, la copia di antenna, perché prima che sono arrivato, diceva la cosa. La superetti poi sono tirato a fianco ieri sera. A culo, mi sono tirato a culo. capelli, me ne va cuccetta. Come mai sei già dormito adesso tu? Eh? Non lo prendo. Benissimo. Marina. Oia. Benissimo. Marina, sei un po' sbuffuto. E tu sei un ubriaco nefragico. Sì, non male. Cosa te ne fa a capo dei curi? A parlare con muro. ma con quello parli con muro veramente? Che puttana non troppo, poi ci vediamo domani. Quello che c'ha. Non ho capito. Domani vedo quello che c'ha dentro, sta vendendo. E poi me lo scelgo. Va bene, dai, riprendo io, dai, che vi saluto che mi si stanno calando le palpebre. Ok, dai, salutone Natalino, ci ascoltiamo tutte le prossime. Salutone anche a te, a tu, dai. E poi ce la ascoltiamo a domani se coincide. Ciao ciao, buonanotte a tutti. Ciao, no, perché buonanotte, buon tutto alle prossime, ne approfitto per chiudere anche io e mi si sta calando la falsa della programma, dai. Ciao Antonio, alle prossime anche quelli che ascoltano. Buonanotte a tutti. Via ciao Antonio, alla manga. Buonanotte con tutto, sono tutti, se mi metto le notti. Ma mi è come questo vecchio. Vabbè, se non vuoi, state bene, ma non è tutto, che fai, se non è che sta, a chiunque.